Friuli nel mondo. Cividale del Friuli, 45esima trasmissione dedicata agli emigrati. Di tutte le città del Friuli, Cividale è con Aquileia la più antica e la più ricca di testimonianze del suo passato splendore di municipio romano, di ducato longobardo, di guarnigione veneta. Da qui, dall'antichissima Forum Iulii, ha preso il nome tutta la regione del Friuli. E oggi chi sosti presso l'armonioso palazzo comunale, dovuto ad un progetto del Palladio, troverà scolpita nel bronzo la figura di Giulio Cesare, fondatore della città. Tutta raccolta intorno alle sue chiese ricche di secoli e di tesori d'arte, affacciata sulle due sponde del Natisone, che l'agile e ardito ponte del diavolo unisce come in un abbraccio, Cividale è anche un attivo centro di vita commerciale, agricola e industriale. Bella città Cividale, e poetico il suo fiume, il Natisone. Persino Gabriele D'Annunzio lo ricorda in una pagina per noi indimenticabile. Appoggiato alla spalletta del Ponte del Diavolo, contemplo nello specchio di smeraldo del Natisone il volto della mia malinconia. E chi può dimenticare, una volta che l'abbia ascoltato, il canto degli usignoli, di notte, lungo le sue rive? È un rincorrersi di trilli, un concerto festoso di note cui già prima sera fanno ecco i grilli evocati dalla bella villotta composta da Enrico Frucco e musicata da Luigi Carboni. Dal ponte, che deve il suo nome ad una curiosa leggenda di cui sono protagonisti il demonio e l'astuzia dei cividalesi, lo sguardo spazia verso i monti che chiudono a nord-est la frontiera italiana, le aeree cuspidi del Canin, il severo profilo del Monte Nero. E a destra, su un'altura tutta verde di boschi e tutto mistico raccoglimento, il punto fervido di riferimento della fede di nostra gente, che ne fa meta di frequenti e devoti pellegrinaggi. Salgono lassù i fedeli da ogni valle e di ogni parlata, salgono a sciogliere un voto o a rinnovare una preghiera che spesso è canto, melodia dell'anima e della voce. Potrebbe meravigliarsi che la Madonna Nera di Castelmonte sia chiamata Colomba del Signore. Per ogni cuore umano la Vergine ha il bianco colore dell'innocenza e benedice e protegge ugualmente chi a lei si rivolga anche nel dialetto slavo delle valli del Natisone, il domestico linguaggio di una terra di confine tra le più fedeli all'Italia. La città del Natisone, caduta Aquileia nel 452 d.C. per mano di Attila, re degli Unni, divenne la capitale della regione sino alla discesa dei Longobardi, i quali vi regnarono per 2 secoli, stabilendovi il duca Gisulfo, cui succedettero altri 17 duchi, alcuni dei quali cinsero la corona regia. Fu questa l'epoca più florida per la città. Capitale di un vasto e ricco ducato, sede di una ricca corte, Cividale vide anche fra le sue mura gli splendori del patriarcato di Aquileia, qui trapiantatosi nei primi decenni del secolo VIII per opera di Calisto. Ed ecco sorgere le opere più insigni, il tempietto longobardo di Santa Maria in Valle, il battistero di Calisto, l'altare di Raschis, monumenti che la città conserva e custodisce con legittima gelosia. Sì.